Vabbè, iniziamo. Due cose veloci, come siamo arrivati alla sportiva, alla cooperativa Porta Luce, e perché presentiamo questo libro. Come Terra Trema, come Folletto 25603, abbiamo deciso di presentare questo libro. Non so quanti di voi conoscono la Terra Trema, non so quanti conoscono il Folletto, ci provo velocemente a raccontare questa esperienza. La Terra Trema nasce al Folletto. Il Folletto è uno spazio che all'oggi è occupato, ha una storia lunga 10 anni, è una storia che si rifà un po' alla storia dei centri sociali metropolitani, ma in realtà è qualcosa di diverso per scelta e qualcosa di diverso per la collocazione territoriale. La Terra Trema nasce lì. La Terra Trema è un progetto che ha il suo culmine, comunque il momento più alto di visibilità in 3 giorni che si svolgono a Leoncavallo, e coinvolge centinaia di vignaioli e decine di agricoltori, sparsi un po' per tutta l'Italia. Sono tendenzialmente piccoli contadini, piccoli agricoltori, piccoli produttori, e la cosa strana, o comunque la cosa interessante, è perché una realtà come il Folletto incontra la questione dell'agricoltura, la questione del cibo, la questione del territorio. Perché per noi sono temi fondamentali, temi centrali, temi importanti, temi attraverso i quali si può leggere senza paura, si può esagerare, dicendo il mondo in cui viviamo. Cioè, passare da lì vuol dire fare dei ragionamenti sul modo in cui si vive, ragionare sul modo in cui si consumano i cibi, il modo in cui si producono i cibi soprattutto, il modo in cui si distribuiscono, le relazioni che ci sono, di tipo sociale, di tipo economico, per noi sono questioni fondamentali e centrali. D'altronde il mondo è ancora fatto per metà, se non più della metà, di persone che di mestiere fanno per te. Quindi questo è un po' l'anomalia del fatto che comunque delle esperienze per caratteristica, per storia metropolitane, a un certo punto incontrano gli agricoltori. In questa roba potente, chiunque abbia attraversato la Terra Trema a Leoncavallo ha subito questa percezione. Veniamo al libro di Michele. Per noi quest'anno la Terra Trema, i 3 giorni di visibilità, saranno il 26, 27 e 28 novembre a Leoncavallo. Per costruire, però, la Terra Trema non è solo quei 3 giorni, ogni giorno, ogni momento, cioè è una cosa che vive tutto l'anno, di relazioni, di spostamenti, di conoscenze con questi agricoltori, con questi contadini sparsi un po' per tutta l'Italia. Quest'anno l'idea era di fare una serie di momenti non legati ai 3 giorni, non legati a uno spazio specifico, non legati solo a Milano, ma in giro per vari spazi. E ci sembrava naturale iniziare dal libro di Michele. Michele è un pezzo della nostra storia, l'abbiamo incontrato quasi per caso, o non per caso, su una presentazione di un altro libro, che era un libro che parlava di ricette nel carcere, un libro fotografico, che parlava della cucina nel carcere. L'abbiamo conosciuto così perché alla Diete Grasso abbiamo organizzato, come ho detto, in un certo momento, una mostra, un momento per parlare l'istituzione totale di un'istituzione come il carcere. Lì abbiamo conosciuto che si occupava di cibo, di pesca, di vino, di enogastronomia, e quindi poi l'abbiamo rincontrato, rinvitato a un'edizione della Terra Trema. E era ospite da noi, dormiva alla cascina di Zona Maria, che è una cascina che sta ad Albairate, in cui uno di noi ci vive e ci lavora. E abbiamo incominciato a parlare di territorio, di questi temi. Michele ha continuato a fare il suo lavoro, ha fatto uno dei libri importanti, o comunque che seguivano il filone che poi l'ha portato a fare Il Sapore della Terra di Mezzo, era un viaggio lungo il Po. A un certo punto Michele mi dice: ne voglio fare uno che parla del Ticino, più o meno, insomma. Mi piacerebbe che mi accompagnate in un pezzo, in un pezzettino di questo viaggio che voglio fare. E così è stato, nel senso che con Michele appunto abbiamo fatto incontrare gli agricoltori che conoscevamo, io ho incontrato gli agricoltori che conoscevamo, ho incontrato mio padre che è un tesinato, uno che frequenta il Ticino da più di 50 anni, e è nato questo libro. E questo libro contiene tanto di quello che è la terra trema, di quello che è il Folletto, di quello che è la nostra progettualità. E quindi ci sembrava naturale e importante farlo. È stato interessante perché ieri eravamo a Cassinetta, quindi al di là o al di là del ponte, a seconda di come lo si guarda, e oggi siamo qua a Vigevano e ci siamo già resi conto, comunque nel costruire questa iniziativa, già lo sapevamo, del fatto che comunque 10 km sono 200 anni di differenza e di distanza, no? Nel senso che comunque ti rendi conto che restano ancora tante differenze, soprattutto se lo si guarda con uno sguardo storico. Poi chiaramente nel 2010 è un attimo di Vigevano, un attimo per essere a Betegrasso, è un altro attimo per essere a Milano. Poi io mi fermo qua e adesso lascio la parola a Michele che ci racconta un po'.